Uno, due, tre. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Sono le 7:22 minuti e siamo qui, cari ascoltatori, pronti a leggere i giornali. Vi ricordo che oggi parleremo di attualità politica dopo il video di Berlusconi, la vicenda dell'IVA. Allora, aumenterà quest'IVA oppure no? Dal 1 ottobre pare proprio di sì. La rinascita di Forza Italia. Insomma, avremo due protagonisti della politica. Il sindaco di Verona, Flavio Tosi, per la Lega, sarà con noi. Sarà con noi anche l'onorevole del PD, Pippo Civati, questo alle 8:15, tra un'ora circa. E allora, razza di debosciati, se vi siete svegliati adesso, sapete che mi piace così. E allora andiamo a leggere i giornali. È giovedì 19 settembre, intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre sulla Fed, la Fed mantiene gli aiuti. A sorpresa restano gli acquisti di bond e Wall Street vola al record, dunque le decisioni economiche e finanziarie che provengono dagli Stati Uniti. Per il resto quasi tutti i giornali aprono sul video di Berlusconi. Berlusconi attacca ma salva il governo, così apre il Corriere della Sera. Per Repubblica invece resto il leader anche se decado, è una delle frasi di Berlusconi. La Stampa, Berlusconi sfida giudici e PD. Il Messaggero, farò politica anche se decado. Il Giornale, rinasce Forza Italia, scendete in campo, è l'appello del Cavaliere. Il Fatto Quotidiano, video e versione. Per Libero, italiani, ribellatevi, un altro appello di Berlusconi. C'è dire che Avvenire titola in modo molto efficace, secondo me, riassumendo la situazione. Tuona, ma non piove. Ecco, riassume così il messaggio di Berlusconi. Berlusconi, il primo stop, invece, è il titolo del Secolo XIX. Per l'Unità, il video della decadenza, mentre il Manifesto mette una vecchia videocassetta tutta scalcagnata, col nastro rotto, col titolo Forza Italia, e il titolo del Manifesto è Rewind. No? Siamo tornati un po' indietro, riavvolgendo il nastro. Voglio partire però da che cosa? Due segnalazioni, una delle quali ci fa tenere forti, strette le mani sul volante. Ieri mi ha scritto su Twitter, nel mio profilo, Alino Milan, un ascoltatore, ha detto: avvisi che mi stavo facendo la barba. Allora, rasoi per terra, rasoi appoggiati, cari uomini, se vi state facendo la barba, e tazzine del caffè bollente da appoggiare sul tavolo. La vicenda è quella dell'annosa, irrisolta questione dei concorsi universitari. Truccati? C'è un punto di domanda che non si sente in radio, ma insomma, meglio essere sempre garantisti. Beh, il sospetto c'è, da quanto racconta Repubblica. Accompagnava in auto il prof, vince il concorso a medicina. Corrado Zunino. Prima pagina di Repubblica, concorso universitario predeterminato con una scelta preventiva dei candidati che possono proseguire nella carriera di studio, accedere al mondo del lavoro, succede a cardiologia, succede a Roma, succede all'università La Sapienza. Abituata a questo genere di contestazioni, scrive Zunino, è l'ateneo del rettore Frati, della famiglia Frati. E allora la vicenda è nota, Repubblica racconta, ricevemmo lo scorso 13 giugno una mail in cui si segnalavano i 6 nomi dei vincitori del prossimo concorso dei nuovi cardiologi del Policlinico. Puntualmente quella mail che abbiamo tenuto da parte, racconta Zunino, si è rivelata completamente azzeccata. 6 candidati scelti. Per la cattedra di Sapienza, cardiologia 2 e 3 per la cattedra di Latina, sede distaccata, il professor Francesco Fedele è il professore che dirige il dipartimento. Cosa succede? Indovinate un po'? Esattamente come prevedeva quella mail, i 6 vincitori sono proprio quelli. Tra l'altro Repubblica va a intervistare proprio il professor Francesco Fedele, 61 anni, dal 97 titolare della prima cattedra di cardiologia alla Sapienza, direttore dal 2000 della prima scuola di cardiologia, che dice: ho ricevuto anch'io questa mail, non so che dire, io credo di essere una persona abbastanza onesta. Ma come abbastanza onesta? Io sono sobbalzato quando ho sentito questa risposta. Comunque continua l'intervista. Professore, gli studenti che lei ha seguito nella scuola hanno un vantaggio su chi viene a fare le prove da fuori? Il vantaggio è rappresentato dal fatto che nel tempo conosci le persone. È fisiologico, monto il cavallo che conosco di più. Ma come monto il cavallo che conosco di più? È un concorso pubblico. E questo risponde il professore. Che significa, infatti, gli chiede Corrado Zunino. Le prove dovrebbero essere anonime. Certo, certo, è tutto segreto, risponde il professore. E la metafora del cavallo che vuol dire? Voglio dire che non si può rendere tutto asettico, affidarci solo ai computer. Tot il curriculum, tot una prova quiz che passano tutti con 60 punti. Nella prova scritta la nostra valutazione ha un peso e credo sia giusto. Ma insomma, io rimango abbastanza basito nel leggere questa intervista. Non sono un barone, devo condividere i voti con altri e credo di essere una persona abbastanza per bene. Questo risponde il professor Francesco Fedele. La vicenda raccontata da Repubblica, ecco i nomi dei vincitori al concorso di cardiologia, scandalo alla Sapienza. Questo è il dato di fatto, e così è. A proposito di mani sul volante, se le volete tenere ancora, come ci ha preannunciato prima il vice direttore di Libero, oggi lo stesso quotidiano Libero si concentra su quello che ha detto ieri Roberto Cavalli, lo stilista, che in un'intervista al Fatto Quotidiano, intervistato da Beatrice Borromeo, ieri ha detto: io quando incontro una Ferrari parcheggiata prendo la targa, la mando subito alla finanza, vorrei che i ricchi fossero tassati e gli venisse tolto loro metà del patrimonio. E i miei miti sono Gandhi e Che Guevara. Insomma, un'intervista che certamente, come dire, ha un po' colpito, si è associato alla figura importante di uno stilista come Cavalli. Ebbene, Libero oggi scrive: il maestro dello zebrato denuncia gli evasori ma condona sua figlia. Cioè Franco Bechis, a pagina 11 di Libero, racconta tutta l'intervista di Beatrice Borromeo, al quale è sfuggita una domanda. Scusi Cavalli, poteva chiedere allo stilista, ma lei frequenta ancora sua figlia primogenita Cristiana? Credo che abbia scherzato con la finanza, poi si è pentita tanto da avere patteggiato davanti al Tribunale di Firenze 10 mesi per omessa dichiarazione dei redditi come amministratrice di fatto della IGA Finance BV collegata al gruppo Cavalli. Oppure questa seconda domanda: lei Cavalli si guarda mai allo specchio, si frequenta ancora? Non è lei il presidente a Roberto Cavalli S.P.A., la società che nel suo ultimo bilancio rivela di aver avuto qualche scherzetto della finanza, tanto che l'Agenzia delle Entrate pretende 40.950 euro per qualche dimenticanza nei pagamenti IVA e tasse dirette in un contratto con un'agenzia di modelle? Ecco, queste domande, dice Libero, mancano nell'intervista fatta ieri dal Fatto Quotidiano. Il maestro dello zebrato si butta a sinistra, chi evade mi fa orrore, io amo il CE, ma anche lui ha avuto guai col fisco e la sua figlia, l'erede, ha patteggiato 10 mesi. Cose che succedono in Italia, cose che succedono in Italia. Rientriamo dopo la pubblicità e il meteo e ripartiamo da che cosa? Beh, la notizia politica del giorno, certamente, il video messaggio di Berlusconi, tutti i giornali dedicano pagine e pagine a questo tema, ma poi anche il tema, questo invece molto più concreto, visto che interessa a tutti gli italiani, la vicenda dell'IVA. L'IVA, rassegnatevi, pare proprio deciso, scatterà, aumenterà, non ci sono i soldi, non si trova questo benedetto miliardo che serve per coprire e scongiurare l'aumento dell'IVA dal 1 ottobre. Dovete mettervi l'anima in pace. Se volete provvedere a dare un miliardo nel frattempo al governo, mandate a Roma, se no rassegnatevi. Giustamente un ascoltatore mi scrive: ma insomma, mai una notizia per godere del caffè mi potete dare al mattino? Va bene. Il Milan ha vinto 2-0, per esempio, nell'esordio di Champions League, e questa è un'ottima notizia, quindi può bere il caffè con ottimo umore, come vede. E, detto questo, veniamo alle cose che interessano concretamente gli italiani dalla lettura dei giornali, vale a dire la vicenda dell'IVA intanto. Lo scontro sull'aumento dell'IVA, lo scontro è diventato politico, questo è il titolo di pagina 10 del Sole 24 Ore, scontro sull'aumento dell'IVA, per l'appunto è stato sufficiente ipotizzare l'aumento dell'IVA di inizio ottobre per riaccendere lo scontro all'interno della strana maggioranza, con una differenza rispetto a fine agosto, quando il governo ballava sull'IMU. Stavolta centrodestra e buona parte dello stesso centrosinistra bocciano l'ipotesi avanzata martedì dal governo di far scattare l'aumento dell'aliquota ordinaria dal 21 al 22%, dopo che c'è stato l'incontro tra Letta, il ministro dell'economia Saccomanni, e il commissario europeo Olli Rehn. In realtà, però, scrive il Sole, lo stato della finanza pubblica, stando a indiscrezioni sulla nota di aggiornamento del documento che verrà presentata al Consiglio dei Ministri domani, sembrerebbe dire che l'Italia è al limite del 3% nel rapporto deficit-PIL. Forse si arriva al 3,1 e dunque non ci sono le risorse per scongiurare l'aumento IVA di inizio ottobre e contemporaneamente procedere a metà dicembre all'esenzione IMU per l'abitazione principale, i terreni agricoli, gli alloggi popolari, gli immobili invenduti dei costruttori. Fare tutto questo insieme non si riesce, non ci sono le risorse, tanto che in un retroscena di Repubblica firmato da Roberto Mania in prima pagina, Sacco Manni non molla sul rigore e minaccia di dare le dimissioni, così titola Repubblica. In prima pagina e poi pagina 11, Sacco Manni non molla, dal 1 ottobre l'IVA aumenterà perché non ci sono alternative, perché non si può sforare il vincolo del 3% del deficit, perché è già previsto dalla legge. E se qualcuno dovesse pensare che si possa ricorrere a trucchi contabili o coperture ballerine, l'ex banchiere centrale ha già detto che non esiterebbe a dimettersi, perché, ha detto lui a diversi interlocutori, in Europa sono io a metterci la faccia. Dunque, scrive Mania, cresce la tensione intorno al dossier IVA. Eccolo qui, io ve l'avevo preannunciato. Ho detto, come mai in sordina la vicenda Berlusconi aveva tenuto in sordina questo tormentone che sull'IMU tutto agosto ci siamo portati avanti? Ebbene, eccolo qui, è partito adesso vero e proprio il tormentone sull'IVA entro il 1 ottobre. In tutto questo ci sono due interviste al vice ministro dell'economia Stefano Fassina, che sceglie l'Unità e il Manifesto per dire quello che va dicendo da tempo, cioè l'intervento sull'IVA si evita se i ricchi pagano l'IMU. È in qualche modo un Fassina che vuole, anche se non lo dice esplicitamente, riaprire il dossier IMU, archiviato troppo rapidamente. Intervistato da Bianca Di Giovanni sull'Unità, Fassina dice: non mi permetto di dire che quell'accordo politico sull'IMU vada rivisto. Dico solo che non si può avere tutto. E aggiungo che per me è più importante bloccare l'IVA che eliminare l'IMU sulla prima casa. Secondo me, in un quadro di risorse limitato, è opportuno seguire due criteri, l'equità e il sostegno ai produttori. L'interesse del paese si raggiunge con questi due obiettivi. In caso contrario, non riusciamo a sostenere la ripresa. Dice Fassina, certo, un po' utilizzeremo le risorse accantonate per la gestione del debito risultate in avanzo grazie all'abbassamento dello spread, ma non basta. Il PIL scende giù più del previsto. Con l'aggiornamento al DEF il quadro sarà chiaro domani. Il punto è che lo spazio finanziario è limitato e questo non ci consente di affrontare lo stop all'IVA, l'intervento sull'IMU, le risorse per la cassa integrazione in deroga, quello per il rifinanziamento delle missioni internazionali, gli interventi per restare sotto la soglia del 3%. Insomma, Fassina dice chiaramente i soldi per fare tutto questo, e sono tutte cose da fare, non ci sono. Anche per il Manifesto, intervistato da Antonio Sciotto, il vice ministro dell'economia del PD, la mette così: il PDL scelga niente aumenti se ritorna l'IMU sui ricchi. Quindi di fatto sul Manifesto c'è la riapertura del dossier dell'IMU. Sono tutte, oltre che problematiche economiche stringenti da affrontare dei conti pubblici, anche schermaglie politiche, è evidente questa cosa. Tra l'altro racconta Mario Sensini a riguardo dell'IVA a pagina 11 del Corriere della Sera: riordino delle aliquote arriverà ma dal 2014. Anche Sensini inizia così: non c'è il minimo margine nei conti pubblici per evitare l'aumento dell'IVA dal 1 ottobre. L'aggiornamento del quadro economico e finanza pubblica che il Ministro dell'Economia presenterà domani al Consiglio dei Ministri indica che il deficit pubblico tendenziale di quest'anno stia viaggiando oltre l'obiettivo fissato e confermato dal Governo, e per rispettare i patti europei serviranno degli aggiustamenti, non una vera e propria manovra. Ma dal 1 ottobre l'aliquota massima dell'imposta sui consumi scivolerà dal 21 al 22%. Insomma, dalla lettura dei giornali di oggi è cosa fatta, cari italiani. C'è poco da fare, vi dovete rassegnare a questo e a meno che non si trovino dei magheggi o delle soluzioni incredibili, il dato di fatto è che aumenterà l'IVA. Vabbè, la questione è, tra l'altro, scusate, il Messaggero giustamente mette con Roberta Amoruso tutto quelli che sono i rincari previsti a pagina 7, quindi riguardano gli italiani, i beni alimentari di prima necessità non c'entrano, ma tutto il resto, vale a dire il 60-70% del paniere dei consumi delle famiglie italiane, non si salva dal salto dell'IVA al 22%. Carburanti, scarpe, vestiti, elettrodomestici, mobili, telefonini, PC, auto, biciclette, avvocati, idraulici, meccanico, parrucchiere, estetista. Tutto questo aumenterà l'IVA. Se volete i dettagli di tutto ciò che riguarda il portafoglio e insomma il carrello della spesa degli italiani, che aumenterà inevitabilmente con l'aumento dell'IVA. Bene. La notizia politica del giorno invece ovviamente è il videomessaggio di Silvio Berlusconi, riassunto da alcuni giornali, da altri come Il Giornale o Il Foglio, riproposto in maniera integrale, tutto quindi messo in per iscritto. Farò politica anche se decado, questo è il titolo che ha scelto Il Sole 24 Ore a pagina 9, gli attacchi alla magistratura. Non è stato comunque tolto l'appoggio a Letta, è stata rilanciata Forza Italia, c'è quell'appello italiani reagite, che è il titolo per esempio del giornale, scendete in campo, il video, la videoeversione invece la chiama Il Fatto Quotidiano. Vabbè, chiaramente ogni giornale si esercita nella propria lettura anche in base alla corrente politica a cui fanno riferimento i vari quotidiani. Certo, come ha reagito Enrico Letta, il Premier, ha reagito dicendo l'obiettivo è la legge di stabilità e, secondo un retroscena di Repubblica, con la frase, un po' il mantra di questi giorni, io non mi farò logorare. Sta di fatto che le figlie di Berlusconi, Marina e Barbara, dicono e si chiedono ma com'è possibile, se lo considerano un delinquente, che facciano negli ultimi due governi un governo con lui? Questa è una domanda legittima dal punto di vista delle figlie. Qualcuno replica: e come fa Silvio Berlusconi ad attaccare così pesantemente anche la sinistra, anche la politica, e essere al governo con la sinistra? Insomma, stranezze d'Italia per molti. Sta di fatto che sono tanti i retroscena, anche oggi interessanti, perché in fondo il videomessaggio è quello lì, lo potete vedere, c'è poco da commentare, è disponibile per tutti. Mentre i retroscena sono interessanti, per esempio Goffredo De Marchis su Repubblica analizza quello che è il sentimento del Premier Enrico Letta in questo momento. Il titolo è: il PDL ci farà ballare, l'Italia rischia grosso. Scrive De Marchis: ora Enrico Letta vede all'orizzonte l'agonia delle larghe intese. Anche ieri, presentandosi davanti al capo dello Stato Giorgio Napolitano per il giuramento del nuovo giudice della Corte Costituzionale Giuliano Amato, Enrico Letta ha detto: lo spazio si è ristretto, anche se è ancora percorribile. Questa è la situazione. Mentre per Francesco Verderami, il suo retroscena sul Corriere della Sera, Berlusconi è arrivato alla diffusione di questo messaggio dopo aver detto: non ho ricevuto la solidarietà che mi aspettavo. Così dice il Cavaliere a telecamere spente, e la solidarietà a cui fa riferimento, secondo Francesco Verderami, è la solidarietà mancata dal Quirinale, quindi da Giorgio Napolitano. Tutto inutile. Berlusconi è rimasto fermo nei suoi convincimenti. Il videomessaggio è stato un modo per parlare a nuora perché suocera intendesse. Non ho avuto appunto la solidarietà che mi aspettavo. Ho 77 anni, ma per uno come me non conta quello che ho davanti, ma quello che ho fatto. Nonostante un mese e mezzo di mediazioni o di tentativi con il Quirinale, non è arrivato questo appoggio, e dunque Berlusconi si è deciso con questo videomessaggio. Per il Corriere, Letta tira dritto. Viene intervistata dalla Stampa anche la presidente di Magistratura Democratica, la corrente spesso attaccata anche da Silvio Berlusconi, Anna Canepa. Sentite cosa risponde: niente di nuovo, e poi noi non entriamo in polemica con i condannati. Così risponde il segretario di Magistratura Democratica: niente di nuovo sotto il sole, la solita ossessione, come magistrati non entriamo in polemica coi condannati, e al politico Berlusconi non rispondiamo perché non siamo controparte politica. Così intervistata da Guido Ruotolo parla la segretaria di Magistratura Democratica. Mentre il regista Paolo Virzì, sul Fatto Quotidiano, intervistato da Antonello Caporale, dice: beh, mi è venuta un'idea vedendo il video. Faccio un appello agli italiani anch'io: fate tutti un video online, parlate dei cavoli vostri. Per esempio, mia mamma potrebbe intrattenerci con notevole sapienza sulle molteplici ragioni che sconsigliano l'uso dell'aglio nella peperonata. Inondate il web di micromessaggi. Chiunque abbia tempo e voglia, registri un suo pensiero, ma assolutamente personale. Deve parlare dei cavoli suoi e far apparire i suoi problemi come i problemi di tutti. Ecco, così ho reagito quando ho visto il messaggio di Berlusconi. È proprio un appello che fa, registra il tuo messaggio e mandalo online. Intanto dall'altra parte, Renzi che fa? Renzi va a pranzo con il direttore di Chi? Alfonso Signorini, giuro, è vero. Chi se ne frega, potreste dire voi. Beh, ma è diventata una notizia su tutti i giornali. Giuseppe Salvaggiulo sulla Stampa intervista Signorini. Lo stimo e magari lo voto anche, sono berlusconiano, ma Renzi ha lo stesso fascino del Cavaliere. Eccola lì, la stilettata, no? Che rilancia il tema, Renzi in fondo è come Berlusconi. Ebbene sì, siamo amici, ci vediamo, ci stimiamo. Ero a Firenze a vedere gli Uffizi, lo stimo come persona, così dice Signorini di Renzi. È un grande comunicatore, come tanti anche di destra, subisco il fascino della sua leadership, sono contento di conoscerlo meglio, esattamente come anni fa con Berlusconi. Eccolo lì ancora. E vabbè, sul Fatto Quotidiano una pagina a dire, adombrare il sospetto, non è che Signorini fa il faccia a faccia con Renzi perché vuol dire che ha dei segreti, dei dossier su Renzi, e Alfonso Signorini risponde, per quel che ne so io vive come un monaco. Il sindaco di Firenze. Vabbè, sta di fatto che è interessante invece quello che trovate su Repubblica, la riproposizione di un'intervista che Beppe Grillo, sono talmente rare, ha rilasciato a un giornale tedesco, il Die Zeit, che viene riproposta da Repubblica. Bersani mi ignorò e adesso voglio vincere grazie al Porcellum. Beppe Grillo racconta perché non è andato al governo, intervistato da Peter Schneider. Dice perché Bersani non ha mai fatto quello di incontrare il leader del movimento. Se si vuol parlare con un movimento si va dal suo leader, mentre Bersani non lo ha fatto. È stata una mancanza di rispetto, perché noi siamo il maggior movimento italiano. Invece ha tentato di far passare dalla sua parte 11 nostri senatori, perché questa è la mancanza di rispetto di Bersani. E il PD, dice ancora Beppe Grillo, non è guidato da Epifani, bensì dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Poi dice Beppe Grillo, noi puntiamo a vincere, certo che potremmo governare da soli, presenteremo agli italiani già prima delle elezioni 10 o 12 candidati con un curriculum adeguato e il nostro programma. Se prendiamo il 30% con questa legge elettorale abbiamo vinto. Così Beppe Grillo, voglio vincere grazie al Porcellum, intervistato dal Die Zeit, trovate l'intervista su Repubblica. Mi ha colpito come notizia di cronaca questa, che trovate sul Secolo XIX, il gioielliere omicida mi piace. Mi piace, sapete che è il classico modo per chi è su Facebook per dire mi piace una qualsiasi cosa. Ebbene, a Nizza un gioielliere non è che ha sventato una rapina, è stato rapinato, e cosa ha fatto? Ha inseguito i suoi rapinatori, ha sparato e ha ucciso uno di questi. Cosa succede? Succede che è stata creata da uno studente una pagina su Facebook dal titolo Sosteniamo il gioielliere di Nizza. Nel giro di un giorno ha 1 milione di sostenitori, quasi adesso in realtà pare 1.600.000. La pagina creata l'11 settembre, e Stefan Turk, il gioielliere, in quel giorno ha ucciso un ragazzo di 19 anni mentre fuggiva dopo averlo aggredito e derubato, uccide un ladro nel suo negozio, 1,6 milioni lo sostengono su Facebook. Ovviamente la Francia si interroga su questo dibattito. Trovate l'interessante notizia a pagina 8 del Secolo XIX, il gioielliere omicida mi piace. Siamo al momento conclusivo, quello dell'ambito premio La Carta Costa, l'articolo più inutile sui giornali. Torniamo sulla questione del video di Berlusconi. E torniamo su e andiamo sul Messaggero, dove il nostro caro anche amico Diodato Pirone, che so che ci segue, forse ci ascolta, oggi vince perché cosa fa? Va a interrogare, a intervistare tutti gli esperti di comunicazione per rispondere alle domande. Come ha valutato il video? È stato chiaro? Ha annoiato? Che immagine dà? Cosa colpisce di più? E le domande poste ad Alessandro Amadori, a Klaus Davi, ad Antonio Noto, a Maurizio Pessato. C'è chi dice che si è annoiato, c'è chi dice che è stato molto attivo, c'è chi dice che è stato troppo autolesionista. Il linguaggio è semplice, bravo a farsi ascoltare, emozioni, insomma le domande queste, mezza pagina, valutare dal punto di vista comunicativo il video di Berlusconi, mancava la domanda, come valuta il video, è stato chiaro, annoiato, che immagine dà, cosa colpisce di più, come sempre la domanda, chi se ne fotte della comunicatività di questo video politico di Silvio Berlusconi. Ah, il Messaggero, ricordatevi anche voi che la carta costa.